fatto per parlare, c'è chi è fatto per reagire, c'è chi è fatto per subire, c'è chi trova dell'onore anche nel peggior infame. Sanno bene cosa fare, sono